tema. Un giorno qualcuno ti chiederà cosa pensi dell'amore. Amore, amore, amore. Apri il tema, Sergio. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che la, la, la, la, la. Io felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare la, la, la, la, la. Una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si vive. Amore, amore, amore. Continua il tema, Giacomo. Amore è una parola, l'amore vero non esiste. È solo nei sogni di chi ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano. Cade una stella ed è lontana come eternità. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che ora si vive. Amore, amore, amore. Seguita il tema, Francesco. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse è davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore. Maria Papes. Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuor. So di non sbagliar se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuor e la famiglia è calor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor. Viva, viva l'amor, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amor, è per l'amore che si canta.